Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. No, non c'è un'unica inchiesta, sono tante inchieste parallele. Quelle che già sono mature le chiuderemo spero entro l'anno, mi riferisco alle nascenti della dichiarazione di Spatuzza che riguardano la fase esecutiva della strage, altre che riguardano possibili ruoli di soggetti esterni, trattativa e quant'altro, non sono in grado di fare ancora una previsione. Per la prima volta il traguardo ora sembra vicino. Entro fine anno, confida a Radio 24 il procuratore capo di Caltanissetta, Sergio Lari, potrebbe essere chiusa la prima nuova inchiesta su Via D'Amelio. A 18 anni di distanza da quella stagione di stragi e da quella bomba che nel 92 fece saltare in aria il giudice Paolo Borsellino con la sua scorta, potrebbe dunque essere ribaltata la ricostruzione di quell'attentato e rimessi in discussione quelli che dopo due processi e altrettante sentenze sembravano punti fermi sull'esecuzione materiale della strage. Un ribaltamento cominciato con la collaborazione di Gaspare Spatuzza, Utignusu, l'ex braccio armato dei boss di Brancaccio, Filippo e Giuseppe Graviano, che si è autoaccusato del furto della Fiat 126 usata per l'attentato di Via D'Amelio. Una collaborazione da lui stesso spiegata in aula con una conversione religiosa. Nel 2000 mi ero dissociato da Cosa Nostra, quindi avevo iniziato un bellissimo percorso di isolamento, di ravvedimento personale e dietro vedevo solo macerie e distruzione. Le parole di Spatuzza dunque hanno fatto mettere in discussione le sentenze già emesse e riaperto il capitolo del come e del perché invece si fosse arrivati a quella prima versione. Le opzioni possibili che sono che sia stato commesso un gravissimo e clamoroso errore giudiziario, oppure che si sia dolosamente artefatta la realtà costruendo con dei falsi pentiti una ricostruzione sbagliata del segmento esecutivo preparatorio della strage di Ramedo per coprire le responsabilità di soggetti esterni a Cosa Nostra. Concretamente, rispetto alla possibilità che queste ipotesi investigative avessero già avuto corpo in una direzione ben precisa, che è quella di un depistaggio doloso. A questa domanda daremo riuscire a dare una risposta quando termineranno le indagini, però questo aspetto riguarda le ragioni per cui il gruppo Falcone e Borsellino, diciamo, degli investigatori diretti da Arnaldo La Barbera, presentò ai pubblici ministeri dell'epoca una ricostruzione investigativa che riteniamo clamorosamente sbagliata o falsa, da verificarsi questo. Altro aspetto è quello che riguarda i possibili mandanti esterni o comunque coloro i quali avrebbero potuto dall'esterno di Cosa Nostra, parliamo di servizi privati o quant'altro, dare un contributo alle indagini. Depistaggi e falsi pentiti, per questo sono stati indagati tre poliziotti che lavoravano a quelle indagini, coordinati dall'ex questore palermitano Arnaldo La Barbera, nel frattempo morto. Fu depistaggio colossale, secondo il procuratore Lari, ma perché e voluto da chi? La grande rilevanza di questa indagine è certamente avere fatto luce su un depistaggio colossale e su un'indagine che è completamente campata in aria, che è quella che ha portato alle sentenze passate in giudicato del Borsellino 1 e Borsellino bis, per le quali sono stati inflitti numerosi ergastoli. Certamente, diciamo, quello che emergerebbe è il ruolo di soggetti che, pur appartenendo alle istituzioni statali, hanno tradito ai doveri di fedeltà alle istituzioni, quindi sono dei traditori, sono costoro che devono temere. Lo Stato si deve vergognare nella misura in cui ci si vergogna di qualcuno che in famiglia tradisce quelle che sono le regole. Tradimenti e depistaggi che potrebbero spiegare a monte anche le ragioni stesse della bomba di Via D'Amelio, il perché di quella strage che a Cosa Nostra portò apparentemente come effetto immediato una stretta e più controlli. Chi volle la morte di Paolo Borsellino e la fece anticipare, tracce di 007 e impronte di pezzi di Stato sono stati trovati sempre più nelle indagini su Via D'Amelio, come nelle nuove inchieste sul fallito attentato all'Addaura a Giovanni Falcone. È questa la verità che la politica potrebbe non reggere, secondo le perplessità espresse dai magistrati nisseni ascoltati dalla Commissione Nazionale Antimafia? Già un anno fa, ormai, lo scenario inquietante che sembrava prendere forma nelle carte dei magistrati di Caltanissetta era quello di un attentato via D'Amelio voluto perché Borsellino ostacolava la presunta trattativa Stato-Mafia. Sergio Lari. Lo scenario in realtà è molto più drammatico per certi aspetti, perché le nuove dichiarazioni di Spatuzza offrono una ricostruzione della fase esecutiva della strage di Via D'Amelio completamente diversa da quella che invece è stata effettuata nell'ambito dei processi che sono stati in passato celebrati. Oggi ci ritroviamo a dover rifare le stesse indagini sulla base di un'opzione totalmente alternativa, e ovviamente il problema non è soltanto quello di verificare, come sembra che sia, che Spatuzza ha ragione. Il problema è capire anche perché a quei tempi si è invece effettuata una ricostruzione che potrebbe risultare totalmente falsa. Ripercorrere delle strade investigative che all'epoca erano state soltanto, diciamo, accennate o non completamente a fondo, diciamo, percorse, come quella che sembra in qualche modo tracciare quanto sta raccontando Massimo Ciancimino? Sono in realtà due aspetti diversi della stessa drammatica vicenda, perché Ciancimino incentra la sua attenzione sulla fase della trattativa e sull'influenza che può aver avuto la trattativa in corso tra Stato e Cosa Nostra sulla decisione di anticipare l'uccisione di Paolo Borsellino. Parlo di anticipare perché la decisione di ucciderlo era già stata presa nel dicembre del 91 dalla commissione provinciale di Cosa Nostra. L'anticipazione dell'omicidio di Paolo Borsellino potrebbe anche, alla stregua di quello che dichiara Massimo Ciancimino, trovare una chiave di lettura ulteriore, nel senso che i tempi non furono rispettati e furono anticipati perché in qualche modo Paolo Borsellino poteva essere visto come un ostacolo alla trattativa, oppure perché, essendosi arenata la trattativa tra Rina e lo Stato, Rina pensò che accelerando quell'omicidio eccellente lo Stato sarebbe sceso a patti. Questo aspetto, diciamo, è un aspetto che riguarda un segmento diverso da quello di cui parla Spatuzza, perché invece Spatuzza fa un'affermazione netta: non è vero che l'auto fu rubata da determinate persone, l'auto l'ho rubata io, sono altri soggetti che mi hanno incaricato, quindi offre una versione alternativa. E la difficoltà anche capire perché a quei tempi si volle arrivare a risultati che oggi risulterebbero totalmente falsi. Ciò è avvenuto perché si voleva proteggere un terzo livello, ciò è avvenuto per mancanza di capacità investigative, ciò è avvenuto per la voglia di raggiungere subito dei risultati investigativi utili a qualunque costo. Rispetto a quanto sta dichiarando Ciancimino e rispetto all'ipotesi che la strage di Via D'Amelio sia avvenuta prima perché lui sapeva di questa trattativa del famoso papello? Guardi, questa è una delle possibili ricostruzioni di quelle vicende. Anche la scomparsa dell'agenda rossa potrebbe essere determinata dal fatto che in quell'agenda Paolo avrebbe potuto segnare qualche suo elemento di conoscenza in ordine all'esistenza di una trattativa. Per ricordare Paolo Borsellino, c'è stata una marcia, diciamo, da Palermo, sì, con le agende rosse al ricordo di quella mai ritrovata, verso un punto, verso la zona del Monte Pellegrino, dove si ritiene che sia partito il comando per quella strage. Le indagini che hanno a che fare sempre con gli ambigui mondi dello spionaggio si sono sempre dovute fermare fino ad un certo punto. In questo caso, il fatto che sia passato così tanto tempo vi fa sperare che anche su quelle zone così grigie, mi viene da dire, si possa riuscire a fare un po' più di luce? Questo è un altro aspetto ulteriore che rende estremamente difficili e complicate queste indagini. L'esistenza di questo possibile terzo livello di servizi segreti deviati è qualcosa di concreto, di tangibile. Qualcosa l'aveva accennato lo stesso Falcone in occasione del fallito attentato alla Daura. Elementi di questo tipo sono emersi nel corso delle indagini in più occasioni e tuttora emergono anche dalle dichiarazioni di Massimo Ciancimino.